terzo capitolo del trattato di Megillah, in questi due ultimi capitoli del trattato, noi vedremo molte regole che riguardano, visto che abbiamo parlato della lettura della Megillah, ci appoggiamo anche per la lettura del Sefer. Le regole della lettura del Sefer. E come introduzione alla regola della lettura del Sefer, facciamo riferimento ad alcune regole riguardo il Bet HaKnesset, quindi la Kedushah, il livello di santità che c'è nel Bet HaKnesset e come quindi ci si dovrebbe comportare rispetto ad alcune situazioni che adesso andiamo a vedere. Il punto base sul quale si basa quella Mishnah successiva, la seguente Mishnah, è l'idea che se si usa il Bet HaKnesset, allora il luogo assume un certo livello di Kedushah. Se non lo si può più usare, o lo si vuole vendere, eccetera, con il ricavato, bisogna usarlo per un livello di Kedushah più elevato. Ok? E quindi partiamo dal livello più basso di Kedushah, luogo di preghiera, che non è neanche un Bet HaKnesset. Ora vediamo di cosa si tratta. Perek Gimel, Mishnah Aleph. Prima Mishnah del terzo capitolo. Bnei Ha'ir. Se dei cittadini di una città, Shemachru, dovettero vendere Rehova Shel Ir, la piazza o la strada larga della città, perché cosa vuol dire vendono la piazza? Vuol dire se per esempio c'è un luogo, come si usava, che quando si facevano delle tefilot pubbliche particolari, come per un giorno di digiuno stabilito per pregare per la pioggia o per una sofferenza, una cosa simile, allora si usava un luogo aperto, una piazza per esempio, che tutti potevano riunirsi nella piazza, e si faceva tipo una tevà in mezzo alla piazza e si faceva questa funzione. Essendo quindi un luogo, anche se non fisso, per tefilà, assume un certo livello di kedushah. Se i cittadini vendono questo luogo, ok, c'è un cambiamento nella, diciamo, come? Nell'uso del luogo e va venduto, allora con i soldi di questa vendita, Lokhin Bedamav Beit HaKnesset, con quei soldi si devono usare per cosa? Per acquistare un Beit HaKnesset. Quindi si sale di livello dal luogo di preghiera pubblico, per strada, pubblico, si sale di livello per acquistare un Bet HaKnesset fisso, una struttura di un Bet HaKnesset, che ovviamente la sua Kedushah è maggiore rispetto alla Kedushah del luogo di preghiera per strada. E quindi si fa salire il valore di Kedushah di quello che era prima, visto a quello che sarà adesso. In realtà, quanto è stato detto nella nostra Mishnah è un'opinione, anche se non è esplicito qui, ma è spiegato nella Gemara, che è un'opinione minoritaria, è un'opinione di un unico maestro, e la maggior parte dei Chachamim sono dell'idea che la strada della città, la piazza, non assume nessun livello di Kedushah, anche con il fatto di fare lì ogni tanto delle tefilot, e di conseguenza non sono d'accordo con questa cosa, e ritengono che si può vendere come qualsiasi altra vendita di terreno o immobiliare, e non siamo obbligati a acquistare con quei soldi un Bet HaKnesset. E in realtà la Halakha segue questa opinione maggioritaria dei Chachamim, anche se in questa Mishnah qui la cosa non è esplicitata. Sì? Solo una curiosità, non so se c'entra, sì. Forse c'entra. Ma cos'è che rende un posto sacro, nel senso, è quello che c'è dentro o il fatto che io sto lì perché devo pregare? Oh, allora, ottima domanda. Cosa rende, per esempio, il Bet HaKnesset, siamo tutti d'accordo che è un luogo di Kedushah? Sì. Cosa lo rende un luogo di Kedushah? Il fatto che è stato fissato come luogo di preghiera. Oh. E ci si prega. Sì. Perché se, per esempio, si crea una struttura e si dice questa struttura è dedicata a, ma non viene effettuata nessuna preghiera, bisogna vedere se effettivamente assume la Kedushah. Ok? Un'altra domanda, però. Esiste un Bet HaKnesset sconsacrato? Oh, ora vediamo. A Toledo. Vediamo un attimo l'Alaha, vediamo se Toledo rientra nell'Alaha. aspetta un attimo. Non divaggiamo. Bet HaKnesset, se si volesse vendere un Bet HaKnesset, se si fosse, diciamo così, in condizione che bisogna vendere il Bet HaKnesset, allora Lokhin Teva, con i soldi della vendita del Bet HaKnesset, si acquista, che cosa? Una Teva. Teva non si intende quello che noi chiamiamo Teva, il leggio sul quale si legge il Sefer, bensì il Aron HaKodesh, l'arca nella quale si mette il Sefer, l'armadio nel quale si mette il Sefer. Ora, da qui sembra che si può vendere un Bet HaKnesset, che la domanda di Leo è stata se è possibile sconsacrare e vendere. Però, in realtà, nella Gemara è scritto che dipende, non sempre è permesso vendere un Bet HaKnesset. La Gemara spiega che in una città piccola o in un villaggio in cui c'è un Bet HaKnesset che viene dedicato luogo di preghiera per chi? Per i cittadini di questo villaggio. Tutti i cittadini del villaggio possono essere d'accordo sulla vendita e con il ricavo fare qualcosa di kedusha maggiore, come abbiamo spiegato. Però il problema si pone nel caso in cui si trattasse di una città normale, quindi di una città grande dove passano persone da qualsiasi luogo. Il Bet Knesset che si fa in una città grande è considerato che non è, diciamo così, dedicato ad essere Bet HaKnesset solamente dai cittadini di quella città, ma da tutti quelli che possono anche essere di passaggio. Quindi è come se si facesse, si rendesse sacro un posto a nome di tutto il popolo ebraico. Di conseguenza non è più possibile sconsacrarlo. Perché non dove metti d'accordo tutto il popolo ebraico? No, teoricamente. Quindi viene fatto per tutti e di conseguenza è vietato venderlo. Ok? Ora, entrando poi nel specifico dell'Alakha, bisogna vedere se si è costretti, eccetera, se si butta giù l'edificio. Questo è già un altro discorso. Si può, per esempio, buttare giù un Bet HaKnesset per costruirne uno migliore. Però bisogna prima costruire quell'altro e poi buttare giù questo, perché ci sono delle halakhot a riguardo e delle situazioni specifiche nella letteratura del Shut, cioè Shelot veTshuvot, le risponse dei Chachamim, delle tutte le generazioni, anche questa si entra nel dettaglio per ogni singola situazione. Allora, abbiamo detto che Teva, se si vende una Teva, cioè la Rona Kodesh, ok? L'arca nella quale si pone il Sefer, se la si deve vendere, cosa si fa con il ricavo? Lokhin mit pachot. Si devono acquistare una cosa di Kedushah più elevata, e cioè in questo caso mit pachot. Cosa sono mit pachot? Le vesti del Sefer. Ah, è più alto del Ron. Sì, è più vicino al Sefer. Okay. Come si chiamano le... Vabbè, come chiamate a Roma? Le vesti del Sefer. Ok, se si vendono le mitpachot, lokhin sfarim, allora si acquistano libri, per libri si intende rotoli di Nevim e Ketuvim, i profeti e gli agiografi. Se si vendessero questi sefarim, allora lokhin Torah. Bisogna acquistare da questo punto un Sefer Torah vero e proprio. Aval im machru Torah, ma se dovessero vendere il Sefer Torah, loikhu sefarim, non possono acquistare con il ricavo un libro di profeti, perché è considerato una kedusha minore. Se si vendesse il Sefer Torah, non si può acquistare un libro di profeti. Solo un altro Sefer Torah. Sì. E appunto anche sfarim, vendendo i... Nevim, Muktuvim, vendendo un libro dei profeti, loikhu mitpachot, comunque non si può scendere per acquistare le vesti di un Sefer Torah, perché le vesti del Sefer Torah sono considerate minore di livello rispetto al libro dei profeti. Teva, mitpachot, se vendono le vesti, loikhu teva, non possono acquistare un Arona Kodesh. Adesso andiamo dall'altra direzione, ascendere. Teva, se vendessero l'Arona Kodesh, la Teva, loikhu Bet HaKnesset, non possono acquistare la struttura del Bet HaKnesset con quei soldi. Se vendono il Bet HaKnesset, lo ikhu et harechov, non possono acquistare la piazza per fare le tefilot nella piazza. Ok? Se vende tutto il Bet HaKnesset completo, che fa? Ogni cosa deve essere distinta. I soldi del Sefer devono essere per un Sefer, certo. Perché vedi che c'è il problema di far scendere. È quindi... complicato, perché cioè, l'esaurio dopo, compri prima un Bet HaKnesset e poi si fa rim, cioè... Sì. Vehen bemotrehen, così anche nella rimanenza. Cioè, se tu, per esempio, vendi le vesti e con questo compri un sefer di Nevi'im, e però c'è il resto, ci sono soldi che rimangono, lo stesso livello di Kedusha anche per i soldi che rimangono. Devi trovare un modo che quei soldi siano spesi per quel stesso livello di Kedushah, anche la rimanenza del soldo, il resto che ti danno non può essere usato per una Kedushah minore. Inoltre, un'altra halakha, en mochrin et shel rabbim, non si può vendere un tempio che è di proprietà di un pubblico, di una comunità, di un pubblico, la yachid, a un singolo, ok? A un individuo. Perché? Mi pneisce moridino to mikdushato. Ci sono persone che hanno un tempio privato. Questo è il mio tempio, io lo acquisto, e chi vuole pregare, eccetera. Se fosse di un pubblico, non si può vendere ad un privato, perché è considerato una discesa di Kedushah, perché un Bet HaKnesset che appartiene a tutti più alto, certo, ha una Kedushah più elevata. Certo. Questo divrei Rabbi Yehuda. Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda, quanto abbiamo detto adesso, riguardo il Bet HaKnesset del pubblico rispetto a quello del privato. Amrulo, dissero a lui i maestri, imken, se è così, come dici tu, che non si può vendere da un Bet Knesset pubblico e farlo diventare Bet Knesset privato, aflom e irgdolal e irktana, la stessa logica dovrebbe applicarsi a non vendere un Bet Knesset da una città grande ad un villaggio piccolo, perché in un villaggio piccolo, come abbiamo già spiegato prima, il Bet Knesset è considerato non privato, però comunque è solo di quelli del villaggio, mentre quello della città grande è considerato di tutto il mondo. E visto che non è così, dicono i Chachamim, visto che la halakha non è questa, è permesso vendere sì da una città grande a un villaggio a una città piccola, di conseguenza, dicono i Chachamim, è anche permesso vendere da un pubblico a un privato. Quindi non sono d'accordo con Rabbi Yehuda. Va bene? Allora questa è la prima Mishnah. Seconda Mishnah. Per ciò che riguarda sempre la vendita di un Bet HaKnesset, dice la Mishnah, en mochrin Bet HaKnesset, non si può vendere un Bet HaKnesset anche se fosse lineare, cioè vendita da un pubblico a un altro pubblico, e là solamente con una condizione al tenai, facendo una condizione, stipulando che Sheim Irzu, che se volessero più avanti, Yachziruhu, potrebbero ricomprare, perché questo per far vedere che la vendita non è causata da un disprezzo, da un poco rispetto nei confronti del Bet HaKnesset, cioè, vabbè, non ci serve più, vendiamo. Allora sembra una cosa poco dignitosa e poco rispettosa nei confronti, poco rispettabile nei confronti del Bet HaKnesset. Invece se c'è la condizione nel contratto che se volessimo potremmo ricomprare e tutta la vendita tornerebbe indietro, allora si mantiene il rispetto per il luogo. Questo divrei Rabbi Meir. Questo però è un'opinione appunto di un solo maestro, di Rabbi Meir. Mentre i Chachamim invece dicono, non è necessario fare tutta questa condizione qui, però c'è comunque qualche condizione. Qual è? Vediamo. Vachachamim omrim, i maestri dicono, mochrimoto, è permissibile sì venderlo il Bet HaKnesset, mimkar olam, una vendita perpetua, totale, ok? Però, anche se non fosse usato per un Bet HaKnesset, ma bisogna fare ci sono quattro condizioni, cioè quattro eccezioni di uso per quel luogo. Chutz me'arba'a devarim, a parte quattro cose per le quali non potrà essere usato il locale del Bet HaKnesset o del ex Bet HaKnesset, che sarebbero le seguenti quattro cose. La prima cosa, la merchatz. Un merchatz è un bagno, bagno pubblico, dove si va a lavarsi. Merchatz è il bagno come la sauna o il bagno che si va a lavare. La bursechi. Bursechi sarebbe quello che lavora la pelle, come si chiama? Conciatore. Conciatore, che è un lavoro molto sporco, sgradevole. La tevilà, non può essere usato per tevilà come mikve. E anche ule betamaim. Betamaim significa un bagno per fare i bisogni. Casa dell'acqua. Dove c'è impurità, praticamente. Sì. O altri dicono che non è il bagno, è il, la lavanderia. Ok? Rabbi Yehuda dice, io ho un'altra soluzione. Mochrim oto leshem chatzer. Lo si vende come cortile, cioè come una cosa neutra. Non è nessuna indicazione specifica. Tu vai al catasto e dici, no, questo è venduto così. Non c'è... Quindi nella vendita stessa non viene indicato l'indirizzo di che tipo, a che cosa è accatastato. Per mantenere quella dignità nella vendita. Poi... La destinazione d'uso, esattamente. Poi, ve'alokeach, chi ha colui che acquista, ma se yirze yase, potrà fare quello che gli pare. Cioè, per lui basta mantenere il rispetto, la dignità nel momento della vendita e nel contratto. Poi una volta cambia, c'è il trasferimento di proprietà, allora chi acquista può fare quello che vuole, non c'ha limiti. E questa opinione però, scusa, non è l'alakha finale. L'alakha finale segue non Rabbi Meir, che era più estremo e ha detto bisogna avere anche la possibilità di ricomprare, non Rabbi Yehuda, che era estremo nell'altro lato, che ha detto basta che non metti una destinazione d'uso, poi fai quello che ti pare. L'alakha invece segue la maggioranza dei Chachamim, che hanno detto si può vendere con queste quattro condizioni. Prego. Ma solo, El Mokrim, il soggetto, sì, è il proprietario, chiunque sia il proprietario. Sì, che sia un privato, che è il proprietario del Beit HaKnesset, o che sia un pubblico. Mishnah Gimel. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Disse inoltre Rabbi Yehuda. Beit HaKnesset Shecharav. Qualora ci fosse un Beit HaKnesset distrutto, quindi le rovine di un Beit HaKnesset, per esempio vai ad Ostia Antica, vedi le rovine di un Beit HaKnesset, ok? Nonostante fosse in una condizione questa, appunto, en maspidin betocho. Comunque mantiene un po' della sua kedusha, ok? Nonostante fosse solo delle rovine, un luogo distrutto, e quindi non si fa al suo interno un hesped, un elogio funebre di una semplice persona, che è una cosa che normalmente non si fa dentro un Beit HaKnesset, a meno che sia l'elogio, l'hesped di un chacham o un grande della città. Allora quello sarebbe permesso anche in un Beit HaKnesset funzionante, di conseguenza è permesso anche nelle rovine del Beit HaKnesset. Ma se uno dice un Beit HaKnesset rovinato e uno spazio aperto, allora usiamo questo spazio perché ci fa comodo, no? Mantiene sempre qualche livello, diciamo così, di kedusha. E quindi ve'en mafshilin betocho chavalim, non si usa quello spazio delle rovine del ex, diciamo così, Beit HaKnesset, per fare dei lavori come quando bisogna fare delle funi, creare le corde, servono spazi larghi. Allora uno potrebbe dire, questo è uno spazio largo che è idoneo per questo lavoro. No, non è permesso. Ve'em porsin le tochom mezudot, uguale per le mezudot, come si dice mezudot? Nets. Per prendere le reti. Le reti, uguale la stessa cosa con le reti. Ven shotrin al gago peirot. Se c'è un tetto, non si può mettere sul tetto frutta da seccare, come si usa in luoghi di sole, che si secca la frutta sul tetto, come si fa ancora oggi in Sicilia, in Nord Africa. o le copiette a Roma, esattamente. Veeno sino tocca pandria, e addirittura non lo si può usare per una scorciatoia. Cioè, vabbè, c'è questo luogo, invece di fare il giro della strada, passo di qua. Noi l'abbiamo studiato già riguardo un Beta Knesset vero e proprio. Questo è valido anche per le rovine di un Beta Knesset. Shenemar, perché è detto, è scritto nella Torah, nel libro di Devarim, Vashimoti et Mikdeshechem, nelle Maisia, nelle maledizioni, è scritto renderò rovina, metterò in rovina i vostri luoghi sacri, Mikdeshechem. Però siccome la Torah li chiama comunque luoghi sacri, anche quando sono in rovina, significa che mantengono, è un'allusione all'idea che mantengono anche Kedushah, anche nella rovina. Kedushatan af keshehen shomemin, sono sacri anche mentre sono in rovina e desolati. Allu bo asavim, se crescono delle erbe, erbacce, visto che sta in rovina, dentro a questo Beta Knesset iniziano a crescere le erbe, le cose, lo itlosh, non vanno tolte, perché? Mipnei agmat nefesh, per la sofferenza. Cosa significa per la sofferenza? Che si soffra quando si vede, che quando si passa lì e si vedono le erbacce, allora la persona fa teshuvah e dice mamma mia, mai sia, perché succede questo a noi, che il nostro Beta Knesset sta in rovina, e non solo sta in rovina ma crescono le erbacce, eccetera. Questo è un modo di risvegliare, non che si fanno crescere, ma se crescono, sì, non si tolgono, addirittura, perché risveglia nella persona di voler fare teshuvah e magari di ricostruire se possibile il Beta Knesset, eccetera. La Gemara spiega che non togliere le erbe significa non prendere queste erbacce e dare da mangiare ai tuoi animali, quindi tu usufruisci in qualche maniera, ma tagliarle e lasciarle lì, che comunque si veda quando si passa, eccetera, questo sì è permesso. Ok? Ora la nostra Mishnah torna da qui, avendo parlato del Beta Knesset, ora iniziamo a parlare della lettura del Sefer. Visto che siamo comunque in Masechet Megillah, allora quando parliamo delle regole della lettura del Sefer, partiamo da che cosa? Domani. Dalle regole che riguardano la lettura del Sefer, delle quattro parashiyot straordinarie che si leggono nel mese di Adar, in concomitanza col mese di Adar. E la Mishnah inizia dicendo così. Rosh Chodesh Adar, Shechal Yod Bashabbat, se venisse il Rosh Chodesh del mese di Adar nel giorno dello Shabbat, allora in quel giorno stesso si fa uscire un secondo Sefer. Stamattina, Korin be Parashat Shekalim. Si legge la Parashat di Kitisa all'inizio, come Maftir, come secondo Sefer, si legge la Parashat dei Shekalim. Perché? Perché il primo giorno di Adar, Rosh Chodesh Adar, si inizia a ricordare a tutti che devono pagare il mezzo shekel. Se invece viene durante la settimana Rosh Chodesh, Chaliot Betocha Shabbat, se viene durante la settimana, Shabbat significa anche la settimana, ok? Makdimin le Sheavar, si anticipa Shekalim allo Shabbat scorso, quindi lo Shabbat prima di Rosh Chodesh, come noi abbiamo fatto questa settimana. Giovedì sarà Rosh Chodesh e lo Shabbat scorso abbiamo letto Shekalim. Umafsikin le Shabbat Acheret, e il Shabbat successivo, quello che sarà dopo Rosh Chodesh, si interrompe, cioè non c'è una seconda parasha, un secondo Sefer. Ok? Se fosse Rosh Chodesh e Shabbat insieme, allora lo Shabbat subito successivo ci sarebbe il secondo Sefer di nuovo. Invece, in questo caso, come da noi quest'anno, prima c'è Shabbat, quindi si legge Shekalim, poi c'è Rosh Chodesh, il prossimo Shabbat solo parasha normale, e quello successivo, ora vediamo quale parasha ci sarà. Ricordiamo un sabato, va bene. Sì, interrompiamo, sì, per le quattro parashiyot, sì, interrompiamo di uno Shabbat, e ora arriverà la seconda. Bashenia, il secondo Shabbat, o se Rosh Chodesh fosse prima, il terzo Shabbat, Zachor, si legge la parasha di Zachor, cioè lo Shabbat prima di Purim, si ricorda Amalek, Haman deriva da Amalek, c'è scritto, e si legge la parasha di ricordare ciò che fece Amalek. Sempre come secondo Sefer. Per accostare, il cancellare il ricordo di Amalek al cancellare il ricordo di Haman. Terza parasha, Bashelishit, cioè lo Shabbat che è successivo a Purim, oppure lo Shabbat che è più vicino a Rosh Chodesh Nisan, quando lo Rosh Chodesh Nisan viene di Shabbat, allora, come sarà se Dio vuole quest'anno, che lo Rosh Chodesh Nisan viene di Shabbat, allora in quel caso si legge Para Aduma, la vacca rossa, perché questo si legge sempre prima di Rosh Chodesh Nisan per ricordare a tutti che si devono purificare con le ceneri e l'acqua della vacca rossa prima di andare a fare la Aliyah, la Regel e il Korban Pesach, andare al Beit HaMikdash a Yerushalayim per Pesach. Barevit, il quarto delle Shabbat, delle Parashiot particolari, la quarta cosa è o prima di Rosh Chodesh Nisan oppure Rosh Chodesh Nisan stesso, se venisse di Shabbat come dicevamo, si legge Achodesh Azeh Lachem, la parasha che introduce la mitzvah del santificare i mesi, nella parasha di Bo, che è la parasha di Pesach, dove si parla del mese, si parla di fare Pesach. Bachamishit, dopo che hanno fatto tutti questi quattro e si arriva alla quinta settimana, che non è sempre la quinta settimana, come abbiamo visto qualche volta accensione, ma la quinta volta dopo queste quattro, Chosrin Lekisidran, si torna alle haftarot normali, della, legate alla parasha della settimana, perché in queste quattro c'è un'haftarah legata al maftir, che il maftir è straordinario, non è il maftir della parasha, è il maftir della seconda parasha, del secondo sefer. Invece alla quinta, cioè dopo finito questo ciclo di quattro, si torna al normale funzionamento. Ok, ora la Mishnah dice, non solo per queste parashiot si fa un'interruzione dalla lettura normale, soprattutto delle haftarot, perché l'haftarah cambia, va in base al secondo sefer e non al primo sefer, la parashah normale, non solo per queste quattro parashiot, ma anche per altre cose, come Berashei Chodashim, quando Shabbat viene di Rosh Chodesh, si legge anche il sefer di Rosh Chodesh, e l'haftarah è legata a Rosh Chodesh, Bachanukah Ubapurim, quando viene Hanukkah o Purim durante Shabbat, di nuovo si legge il secondo Sefer e si lega l'Haftarah al secondo Sefer, non alla Parashah della settimana. Bataniot, quando c'è un Tanit, giorno di digiuno, se venisse di giovedì o di lunedì, si legge la Parashah del Tanit e non la Parashah della settimana. La domanda che faceva Donato stamattina, anche per Rosh Chodesh è così, che domani sarà giovedì Rosh Chodesh, si fa rimuovere la parasha della settimana, domani si legge solo quello di Rosh Chodesh. Mafsikin, si interrompe la lettura normale, il ciclo normale. Uba Ma'amadot, questo abbiamo detto per i digiuni e per i Ma'amadot. Se vi ricordate abbiamo studiato l'anno scorso i Ma'amadot, se non sbaglio. In fresca memoria. Ma'amadot sono la seguente cosa. Ogni giorno nel Beit HaMikdash si fanno delle funzioni a nome di tutto Am Israel. Soprattutto le due korbanot tamid, tamid shel shachar e tamid shel ben arbaim, shachar e ben arbaim, della mattina e del pomeriggio, che corrispondono a shacharit e mincha, vero? Mm-hmm. A nome di chi sono portate queste korbanot, di nuovo? Tutto Am Israel. La regola è, se tu porti un korban, tu devi essere presente. Giusto. Come fanno tutto Am Israel ad essere presenti? Non è possibile. E allora, esiste il ma'amad. Il ma'amad significa delle persone, gruppi di persone, che funziona con ciclo annuale, quando tu hai la tua settimana che fai parte di un gruppo che rappresenta tutto Am Israel, per essere presente o nel proprio posto per fare delle preghiere specifiche e comportamenti specifici per quella specifici per quella settimana, e questo si chiama Ma'amad. Ma'amad vuol dire presenza, essere presente, la'amod, stare lì, no? Allora, le Ma'amadot anche hanno una lettura particolare del Sefer, come vedremo un po' più avanti. Questo toglie la lettura della settimana e leggono la lettura del Ma'amad, se giovedì o lunedì. Ok? Ube Yom HaKippurim, anche Kippur, se venisse di Shabbat, a Mincha di Kippur, c'è il Sefer di Kippur, non si legge il Sefer della Parashah breve di lunedì e giovedì, che si legge il sabato pomeriggio, si legge il Sefer normale di Kippur, quindi viene respinta quella di Shabbat e si legge quella di Kippur. Parashat Acharei Mot. Scusate. Va inserito qui anche l'interpretazione che quando abbiamo detto che si interrompe, si parla anche di Moed, che quando è Moed si interrompe proprio la lettura settimanale e si legge solo la parasha di Moed, cioè se Shabbat venisse di Moed, se Moed venisse di Shabbat, si interrompe la lettura dello Shabbat e si legge il Sefer solo di Moed. Mishnah, hey, quinta Mishnah. Andiamo? Vai. Ok. Bapes, cosa si legge durante Moed? Allora la Mishnah ti spiega quali sono le letture dei Moedim. Ba Pesach, primo giorno di Pesach, Korin be parashat Moadot shel Torat Kohanim. Si legge la parashat dei Moedim, il brano ovvero della Torah che parla dei Moedim. La Torah parla dei Moedim varie volte. Be Torat Kohanim, nel libro che si chiama l'istruzione dei Kohanim. Che libro è? Vaikra. Vaikra si chiama anche Torat Kohanim perché è soprattutto legato al servizio del Bet HaMikdash. Ba'atzeret, quando è Shavuot, si legge la parasha dei Moedim nel libro di Devarim, che è Shiva Shavuot, la parasha che riguarda il conteggio delle sette settimane e del Shavuot. Be'Rosh Hashanah, quando è Rosh Hashanah, si legge sempre nel libro di Vaikra, torniamo al libro di Vaikra come a Pesach, Bachodesh Hashevi'i Be'chad Lachodesh, il settimo giorno, il primo giorno, il settimo mese, che è Tishri, il mese di Rosh Hashanah, il primo del mese. Oggi non si usa così, ok? Nella Gemara poi si entra nello specifico e si arriva alla conclusione di quali sono le parashiot che noi leggiamo oggi, perché Rosh Hashanah noi leggiamo il primo giorno la parasha di Sarà, il secondo giorno la parasha della legatura di Yitzhak, e come Maftir leggiamo di libro di Bamidbar il Korban Musaf di Rosh Hashanah. Yom HaKippurim, e questo sì si usa così anche oggi, Acharei Mot. Yom HaKippurim leggiamo la parasha di Acharei Mot, dove si descrive tutta la funzione di Kippur nel Bet HaMikdash. Yom Tov HaRishon Shel Chag, Shel HaChag, il primo giorno di Moed di Chag. Cos'è Chag? No, abbiamo detto Pesach. Sukkot. Sukkot viene chiamato Chag per eccellenza. No, Korin be parashat Moadot she betorat Kohanim. Anche lì si legge la parashat di Moadim di Vaikra. Ubeshar kol yemot haChag, mentre tutti gli restanti giorni del Moed di Sukkot si legge be korbanot haChag. Le korbanot che sono specifiche di quel giorno, visto che a Sukkot ogni giorno c'è un numero diverso di korbanot, come indicato nella parasha di Pinchas, e ogni giorno si legge la parasha relativa a quel giorno là. Ok? Mishnah Vav, ba Hanukkah, è una continuazione della Mishnah precedente. Durante Hanukkah che cosa si legge? Gli otto giorni di Hanukkah noi leggiamo Sefer. Ba Nesim, si legge la parasha dei principi, e cioè dei capi tribù che ogni giorno per 12 giorni hanno offerto, portato le loro offerte al Bet HaMikdash. Perché? Perché con questo hanno inaugurato il Mizbeach, che si chiama Hanukkah HaMizbeach, visto che anche a Hanukkah festeggiamo la Hanukkah HaMizbeach, il rinnovo dell'inaugurazione rinnaugurazione di nuovo del Mizbeach. Allora si legge la parasha della prima volta in cui si è inaugurato il Mizbeach, che è la parasha dei capi tribù. Ma non è quello che si legge il giorno di Nisan, questo? Sì, ma non si legge sul Sefer, quello si legge solo così. È la stessa cosa? Assolutamente sì. Poi, Ba Purim, durante Purim si legge la parasha di Vayavo Amalek, la guerra con Amalek, visto che Haman discende da Amalek, e questo si legge a Purim. Berashei Chodashim, quando è Rosh Chodesh, come domani, si legge Uvrashei Chodshichem, la parasha nel libro di Bamidbar, nella parasha di Pinchas, che parla del korban aggiuntivo, il Musaf di Rosh Chodesh. Ba Ma'amadot, tornando alle Ma'amadot di cui parlavamo prima, cosa leggono quelli che fanno il Ma'amad? Leggono Be Ma'aseh Bereshit. La Gemara si spiega nella Mishnah, nella Gemara del trattato di Tanit, come si divide la lettura? Loro leggono il primo giorno, il primo giorno della creazione, secondo giorno della creazione, e così via. Bataniot, quando ci sono dei digiuni straordinari, si legge Berachot uklalot, le benedizioni e le maledizioni della Parashah Bechukotai, per risvegliare alla Teshuvah, per ricordare le conseguenze delle nostre azioni nel bene e nel male. Quando si legge questa parasha, entriamo in una halakha specifica di quella parasha delle maledizioni, en mafsikin baklalot, non si interrompe tra le maledizioni per fare più chiamate a Sefer. Ela echad koreet kulan, uno le legge tutte, una persona sola esce a Sefer e include tutte le maledizioni in un'unica chiamata. Cosa che facciamo anche oggi, quando c'è la parasha di Bechukotai o Kitavò nel libro di Devarim, c'è una chiamata molto lunga, lo dividi meglio la parasha in maniera più equa, no? L'alakha è che bisogna leggere quella in tutta un'unica chiamata. E si inizia il versetto prima che iniziano le maledizioni e si conclude il versetto dopo, quindi non si inizia e non si conclude con la maledizione stessa. Che non si vuole dire una berachà, c'è scritto nella Gemara, non si fa una berachà su una maledizione, su un male. La berachà della Torah, che si fa la chiamata Sefer, no? È giusto. Altri spiegano che HaKadosh Baruch Hu dice: io sono con voi nella sofferenza. No? Il motivo per cui si allarga, si prende un pezzo da prima, un pezzo da dopo, no? HaKadosh Baruch Hu, io prendo la berachà e tu prendi la maledizione? Cioè, io a Kadosh Baruch Hu prendo la berachà perché tu fai la berachà, Baruch Atah Hashem Noten Torah. E cosa, leggi solo la maledizione? No, devi inserire anche una berachà. Quindi si mette anche la berachà all'interno della chiamata della maledizione, non solo la maledizione. Basheni uva chamishi, per ciò che riguarda la lettura del Sefer, che sappiamo si legge il Sefer il lunedì e il giovedì, cosa si legge? Uba Shabbat Bamincha, e anche lo stesso per Shabbat Bamincha, Korin Kesidran, si legge la parasha della settimana, ma solo chiaramente una parte della parasha della settimana, ve en olin lahem min acheshbon, ma non lo si considera che è già stato letto finché non arriva lo Shabbat successivo. Cioè, non è che noi giovedì leggiamo la prima parte e poi Shabbat proseguiamo da quel punto in poi, no, riprendiamo anche la prima parte e la leggiamo tutta. Questo, ora la Mishnah si chiede per quale motivo abbiamo detto tutte queste halachot, che nel Moed si legge l'halachah del Moed, Hanukkah, l'inaugurazione del Mishkan, eccetera, eccetera. Shenemar, tutto questo si basa su quanto è scritto. Vaidaber Moshe et Moadei Hashem el Bnei Israel. Moshe spiegò, parlò con tutti i Bnei Israel riguardo tutti i Moadim che Hashem ha comandato. Questo versetto è in teoria superfluo. Perché? Ogni volta che c'è scritto Vaidaber Hashem el Moshe le Mori, il Signore parlò con Moshe e Moshe ripeté le cose ai Bnei Israel. In questo caso la Torah viene e ci dice Moshe effettivamente lo fece. Perché ce lo deve dire? Chiaro che Moshe lo fece, ce lo disse. Perché con questo la Torah sta alludendo, dicono i Chachamim, che Moshe insegnava ogni halakha e la lettura di ogni Moed in concomitanza con quel Moed. Quindi quando arriva un Moed bisogna studiare, leggere il Sefer di quel Moed, studiare le halakhot che riguardano quel Moed e così via. Mitzvatan sheyu korin kol echad vechad bismano. La mitzvah della lettura di ogni parasha del Moed, cioè di un momento specifico, è in quel momento specifico. E la Gemara riporta anche il detto dei maestri nella Beraita, che non solo per la lettura del Sefer questo è detto, ma come appunto dicevo prima, che Moshe ha istituito che bisogna fare delle lezioni prima dei Moadim sulle halachot di quei Moadim. Con questo abbiamo concluso il terzo capitolo del trattato di Megillah.